e parenti. La vita è uno show e non siamo i concorrenti. Tutti sugli attenti, ordini dall'alto, sono in arrivo i 10 comandamenti. Non sono scritti sulla pietra, ma sui pad. Nell'era tecnologica puoi scaricarli in free download. Nel bel mezzo di un revival ombelicale, tutto si rifà al passato nel restare in più totale. È tutto uno show business montata ad arte. La verità nascosta, camuffata e messa da parte. Hanno avvistato Loch Ness, alieni da Marte. Guarda, c'è Mona Lisa in Tokyo, sarà mostra d'arte. E tutti abboccano come pesce all'amo, in fila come pecore per acquistare un talismano. La verità che è grosso parolone, chi la dirà, la chiesa, lo stato oppure un semplice coglione. Se l'inferno è il paradiso dei dannati, il paradiso sarà l'inferno dei beati. E se fossimo noi gli alieni su questo pianeta, ricordatemi come Nostradamus e che io il profeta. Piccoli enzi. Che spingiamo flow e lo facciamo gratis. Nell'era multimediale dello showbiz, è tutto uno show business. È il secondo show di Ness. La mia vita è work in progress. Zero show business. Ho rap equo solidale, fatto in casa. Zero commerciale. Se non ti piace quel che dico, la mia voce, sentiti libero di mettermi in croce. Immagino la scena in meno di un secondo. Televisioni collegate da tutto il mondo per assistere alla crocifissione virtuale di un quarantenne condannato per le sue parole. Bruno Vespa in diretta col suo plastico rappresentante un vecchio edificio scolastico. In studio Belen e Selen con dono drastico nel loro ricettacolo, dando vita allo spettacolo. È un classico in diretta dal cenacolo. A terzo giorno si griderà il miracolo. Ucci sento odore di bambocci. Se il giornalista più serio in Italia resta Enrico Lucci. Cambio canale, vedo lacrime di coccodrillo. Il politico più serio, Beppe Grillo. E non lo chiamano show business, ma informazione. È tutto uno show quello che passa alla televisione. La gente ipnotizzata in adorazione, quando lo capirà che è tutta finzione. Siamo dei piccoli enzi. Che spingiamo flow e lo facciamo gratis. Nell'era multimediale dello showbiz, è tutto uno show business. È il secondo show di Ness. La mia vita è work in progress. Zero show business. Ho rap equo solidale, fatto in casa. Zero commerciale. E noi siamo i concorrenti, tutti sugli attenti. Ordini dall'alto, sono in arrivo i 10 comandamenti. Buona la prima ripresa, quindi secondo round riprendo dove ho lasciato, regalandovi il mio sound. È stato bello la prima volta mettermi alla prova. Ora evolvo e vi porto roba nuova. Sempre in continuo work in progress. C'è chi scrive nelle strade e chi per lo show business. Allergico ai programmi o viva la giornata. C'è chi programma tutto, anche le voglie della sua fidanzata. Se tu sei nuovo e sono il Vecchio Testamento, ti spiega ad uno ogni comandamento. Dal Vangelo, secondo Ness, è tutto uno spettacolo. Partendo dall'altare, in attesa del miracolo. È questione di credo. Io credo nella musica, rispetto la tua fede, ma il tuo credo è la classifica. È tutto uno show business, io lo faccio gratis. Chi vive per le vendite sui tunes, io consumo lapis. E se qualcuno se ne dimenticasse, è ancora in fila l'odra, la N e la doppia S. Dio benedica tutti indistintamente. Anche quest'anno io regalo le mie rime in cambio di niente. Siamo dei piccoli enzi. Spingiamo flow e lo facciamo gratis. Nell'era multimediale dello showbiz, è tutto uno show business. È il secondo show di Ness. La mia vita è work in progress. Zero show business. Ho rap equo solidale, fatto in casa. Zero commerciale. Amici, amati e parenti, la vita è uno show e noi siamo i concorrenti. Tutti sugli attenti. Sono in arrivo i 10 comandamenti.